della città di Tripoli, pro e contro assai, la K-47 hanno sanguinato nel nome di Mablavi, catturato dai militari, cinque sono caduti. Ferma la bestia nel Libano, torna a casa, torna soldato, torna a casa dalla tua famiglia, ritorna ad essere uomo, non arma, rivolta contro i fratelli. Torna soldato, torna a casa, fai che le scuole ripossano aprire le porte alla comprensione. Maggio, la città di Rasta contro il regime, tre veicoli militari sono esplosi, andando ignorato e la violenza continua, 23 sono caduti. Ferma la bestia in Siria, torna a casa, torna soldato, torna a casa dalla tua famiglia, ritorna ad essere uomo, non arma, rivolta contro i fratelli. Torna soldato, torna a casa, ricordi era una rivolta pacifica, vedi cosa sei diventato. Maggio, nella regione Al-Jabalai, l'esercito yemenita avanza sulla città di Jar, per l'oro nero è la sua rotta, lungo mare troppo rosso, 42 sono caduti. Ferma la bestia nello Yemen, torna a casa, torna soldato, torna a casa dalla tua famiglia, ritorna ad essere uomo, non arma, rivolta contro i fratelli. Torna soldato, torna a casa, torna sui tuoi passi il sangue versato, guarda dove ti ha portato.